Beh, un po' siamo stati scelti, nel senso che come al solito inseguiamo le cose più belle e straordinarie che arrivano dalla stagione, e quindi non poteva mancare Roma di Cuarón, che ha vinto l'Oscar come migliore film straniero e che è veramente uno dei grandi film del nostro presente. Non poteva mancare il bellissimo documentario su Papa Francesco realizzato da Wim Wenders, film preziosissimo per conoscere più intimamente la personalità di quest'uomo, di questo essere umano straordinario. E poi dovevamo andare molto all'indietro e quindi ci dovevano essere capolavori del 1929 come Il circo di Chaplin o Il cameraman di Buster Keaton, quindi film muti realizzati quando ormai però il cinema sonoro era arrivato, ma questi geni erano così folli da continuare a fare dei capolavori che io tra l'altro sono sicuro che quando li proietteremo in piazza con l'orchestra del Teatro Comunale che suonerà dal vivo, 5.000-6.000 persone rideranno tutte nello stesso momento, perché sono film di 90 anni fa, ma hanno qualcosa di assolutamente eterno e universale. Poi quest'anno avremo anche alcuni grandi ospiti, come sempre, e ci sarà uno dei grandi registi del cinema contemporaneo, Winding Refn, ci sarà la grande regista Jane Campion, ci sarà una anziana regista che sta per volare a Hollywood per prendere l'Oscar, Lina Wertmüller, e poi tra i tanti ospiti cito uno dei più grandi registi di tutti i tempi, di origini italo-americane, Francis Ford Coppola, che ci porterà l'ultima versione, la terza, perché si è rimesso e ha rimontato Apocalypse Now. Un film così grande che forse perfino Piazza Maggiore, forse perfino lo schermo di Piazza Maggiore è piccolo. Ecco, ha parlato dell'importanza dello stare assieme come dimensione attorno a cui ruota il cinema ritrovato e di Piazza Maggiore. Ci vuole parlare un po' dell'unicità di questa cosa? Sì, io credo che quello che succede in Piazza Maggiore per 54 serate è qualcosa di assolutamente unico al mondo. In nessun luogo del mondo c'è una piazza così bella, così centrale, perché se un bolognese dice ci vediamo in piazza, nessuno si chiede quale sarà la piazza, perché è un luogo che appartiene a tutti i cittadini che ci sono da tanto tempo, che sono appena arrivati, ma anche i turisti la sentono come un luogo unico per la sua bellezza sontuosa e così umana. Ecco, non c'è un luogo al mondo che ha questa bellezza, che ha questa unicità, nel quale la città dedica questo luogo a una grande utopia culturale, cioè a mostrare per nel mese di giugno, di luglio e di agosto grandi capolavori della storia del cinema, della storia del cinema, quindi non solo del cinema del presente, dove cerchiamo di cogliere alcuni dei film più particolari e più ricchi di intelligenza, che più forse sono destinati a vivere nel tempo, ma anche a portare dal passato delle immagini che pensiamo siano ancora molto potenti e molto utili per capire il nostro presente. Ecco, perché noi cittadini di questo inizio di secolo abbiamo una grande fortuna rispetto ai nostri genitori, ai nostri nonni, agli esseri umani che ci hanno preceduto, possiamo vedere gli ultimi 120 anni, possiamo ascoltare le parole delle persone, possiamo vedere come sono svolti i fatti e quindi possiamo avere un'idea della storia molto più precisa e molto più ricca di quella che potevano avere i nostri genitori. E se impariamo a guardare la storia, forse capiamo anche che il nostro destino è meno oscuro di come invece ci appare se siamo immersi in un perenne presente, isolati da soli a guardare uno schermo. Ecco. Io credo che quello che avviene a Bologna è assolutamente unico ed è la ragione per cui così tante personalità del cinema accettano gratuitamente di venire a Bologna a presentare i loro film, e quando salgono sul palco sono esterrefatti. Ecco, nessuno, anche tutti coloro che hanno visto le immagini, hanno sentito i racconti, ma quando salgono sul palco si trovano davanti ad un'esperienza che è assolutamente unica e imprevista. Gioca un ruolo importante anche l'educazione, perché i film sono film a volte lontani da quello che una persona è abituata ad andare a vedere. Non c'è dubbio. Bologna è una città che ha creduto nel 1964 che fosse necessario creare una cineteca. e in tutti questi anni, in questi decenni, ha continuato a farla vivere, a farla crescere. Non c'è un'altra cineteca di origine comunale in Europa che ha avuto questa diffusione come la Cineteca di Bologna. Ed è chiaro che la Cineteca svolge un'opera importante, ma non è solo la Cineteca, sono le tante sale attive, sono gli altri festival che in città si svolgono, è il lavoro importantissimo che si fa quotidianamente nelle scuole. E poi, lasciatemelo dire, Bologna è davvero una città unica, perché io non credo affatto che sia un caso che la più antica università dell'Occidente sia nata a Bologna. È nata a Bologna perché Bologna è una città che ha nel suo DNA la cultura, e quindi i suoi cittadini hanno un interesse verso la cultura che non è normale, che è straordinario. Io le volevo fare un'ultima domanda. Lei ha parlato di alcuni temi portanti di questa rassegna, tra cui la forza delle donne o il dialogo con la diversità. Perché queste scelte? Beh, il cinema è l'arte della modernità. Ecco, penso sempre alla Dolce Vita, quando Fellini nel 59 ha immaginato la Dolce Vita, Via Veneto non era ancora quella che poi sarebbe diventata anche grazie all'invenzione di Fellini. O quando nel 43 Visconti immagina Ossessione, l'Italia è ancora immersa nel fascismo e l'esito della guerra è molto lontano, eppure il neorealismo nasce lì. Quindi io credo che il cinema abbia una forza, una preveggenza, ecco. E il cinema ha avuto un ruolo nel Novecento molto importante. Ecco, se le donne oggi, forse non siamo ancora a una parità, ma ci arriveremo, tra i sessi, ma certamente se la situazione della donna oggi non è quella di 100 anni fa, è anche grazie al cinema, e anche grazie al cinema italiano, perché in Italia per esempio è nato lo star system, le prime grandi dive della storia del cinema sono state Francesca Bertini, Lida Borelli, Pina Menichelli, che erano delle donne che erano anche produttrici e registe in un'Italia che ancora andava verso la prima guerra mondiale, ecco. Quindi io credo che questi film siano molto utili per cogliere e per riflettere su alcuni grandi temi del nostro presente.